cambiato, stavo dalla televisione. E poi ci sei parecchio. No, sono andato a curare un pezzo stamattina, capito? Un pezzo di Antonio, lì vicino a Napoli. Che Antonio? Bobolo. Ah, scappa. E tu come sei a casa? Non sei uscito oggi? Stamattina abbiamo messo a posto per la questione della macchina e dunque adesso sta funzionando bene. Adesso funziona bene. Ma male, a me sei tranquillo. Però non è stato tolto un peso da addosso, Antone. Ma quello sì, ma che si partirà. Si dice la condizione che è fatta solo ti fa più danno, hai fatto bene. Almeno. Abbiamo messo la guarnizione e tutto quanto e. Adesso sta andando meglio, hai capito? Meglio così, almeno la usi la macchina, non te la tiri. Se ti capita un lavoro da fare, puoi andare a lavorare. Certo, da quelle due giornate a mezzo, due giornate là, che ho fatto, due mezze giornate che ho fatto, e dico la cosa là, sai quanto mi ha messo in mano? Come fare così, col prezzo di 16, 18 euro, no? Ti voglio dire, io mi prendo l'olio, non c'è problema. invece faglielo misurare, se no non ci sta dentro, per dargli la misura giusta. E così a me era tranquillo. Ma proprio stamattina è fuggita, adesso c'è un nuovo preso. Se mi lavo come tanto mi chiamano l'alba, lui mi ha detto, io prima fammi compagnia che mi dai la mano, mi ha detto, e pensavo a tenere tipo assieme, fatelo con lui, pensavo a tenere tipo di giocare, c'è tutto fuori, conflitto da 2 e mezzo. Mi ha dato un coso, un altro miliardo di pedale, con una valvola dentro, uno tipo 15 TE, perché aveva due valvole, ne ha una sola, c'è una cambia di condensato di bocca. Non lo so, internet. Sono tutti uguali praticamente. No, cambia uno, un modello all'altro. Cambia, capito. Potrebbe essere anche il B500, capito. Il tassista. Mentre te non fa quello, bruciato. Ma è successo a mio del fratello. Solo mio del fratello c'ha la propria alla vendentatore. Capito? C'ha il B500 bruciato, poi il concierge c'era il trasformatore, vari problemi, non me la metto più. Giuseppe, di vendita. Basta, mi stavo mettendo i pantaloni. Quanti stai dicendo? Perché mi stavo infilando i pantaloni, qua. Perché come vuoi? Allora, tanto non ce li corti, è meglio tutti, adesso mi sono pesato i jeans. Grazie a tutti. detto che poi, ci sono arrivato, dicevo, non ci fai detto da quelle parti se non c'è nessuno cibo, e poi mi è venuto in mente, detto, lì c'è la farina. Dopo quando abbiamo fatto qualche visita a casa sua, dice, su guarda tutto il vicinato, e dice, allora, in quel punto lì è una donna disgraziata, sono gelosi per lo meno. Per quello che è stato chiedere se è successo qualcosa a lui oppure no. Che palle, lavoro subito. a fare tutto, che vedo Giuseppe. Ah, aspetta un attimo che faccio cambio apparato, dai Antonè, datemi 10 minuti, dai. Ma mettimi fuoco come fai, sono di solito tu con gli apparecchi. E tra l'altro, è stata la base, a me lo dici bene, e tocca per il microfono, e sono esci a metà. Abbiamo toccato il risotto per venire qui portato, hai fatto niente? capito. Allora, tutti e due c'hanno la scheda PLL, cioè le, pratica l'integrato PLL, uno c'ha la scheda, non funziona proprio, l'altro invece c'ha l'integrato. Infatti che rimaneva in trasmissione per poco fa, prima si stavo uscendo, adesso non sta più uscendo per niente. Quindi ho il 4 e il PLL, se non sia più il 4 che il PLL è bruciato. Devo sostituire, ho finito lo stagno e devo sostituirli col 4 e 10240, quello digitale. Il problema del maio già è una fesseria, bisogna trovare l'eccezione, quello che ho fatto con gli strumenti, glielo faccio fare a Fabrizio. La missione c'è perfetto, un bijou esce. E l'altro invece proprio non c'è, come trasmette nulla. Ho provato qualcosa della scheda. La scheda è dell'Inuit, cioè l'unificato cosa graziano c'era in quel baracchino suo, che mi sembra aveva lo stesso problema. E poi trasmissione usciva quello lì, invece questo no, questo manco esce in trasmissione, ma invece è una fesseria quello di Graziano. E cosa c'è? Cioè non esce di modulazione? Ma guarda, in trasmissione è eccezione, quello di noi 40 canali, invece Mario sì, Mario in trasmissione esce, cioè usciva, adesso non esce, e che volentieri c'è problema al 4 o al PLL l'integrato, ma anche per una cazzata, e si può risolvere. Che si può risolvere sicuramente, non so qual è il problema. È andata a pisciare. Sono impazzita. E già non lo so. E viene quanto? E la userà, penso. Andrà in qualche posto ogni tanto, non penso che sia stata già così chiusa in bottega, no? Ora si è stata chiusa in bottega. Io non credo, penso che lui la mattina quando si alza fa la bandiera senz'altro. La tua bandiera, che fa chi l'esercito? Allora, fa... fa il militare, quando ci fa a Roma ci sono lavorato solo. Dice, poi. Allora, fa così, fa. Ci vuole Antonio, senza quello siamo morti. Ah beh, meglio grazie di che pagamento ti ha detto, perché poco fa sicuro. No, Antonio. Puglia. E il coso, l'altro è, non quello che ti ho detto il primo, la marca di quel televisore, adesso c'è questo qua, il Grundy è capito, Grundis. Lascia perdere, fa una cosa, c'è un primo cassonetto che tu li butta, ce l'ho, perché i pesi le bulli non ti passano 80 euro, ne aggiungi 10 in più, esce il quello di mia madre preciso, esce. Ma c'è questo televisore, Antonio? Aspetta, adesso te lo faccio sentire, aspetta. Il televisore. Ma quando vorrà la gara? dicevi, il problema è che non si aprono scarpe, due sono le cose. Un ricevitore digitale terrestre che fa quel difetto, se non la preso scarpe. Si può volte quando non è finito male la preso scarpe, si sente fra quello di ogni... Così ti non per sottolineare che c'era qualcosa, e così te lo collego. Tu e K, ma no, adesso, o quando glielo vuoi fare, domani mattina? No, non ho detto che salì dopo. E adesso mi da mezzo a condizionare, verso le 8 qualcosa sono da te, da 8 e un quarto sono da te. Sì, no, c'è calda quell'ora, no, 9 e un quarto, va, già va bene, è stato 8 e un quarto. C'è poi un calo da croppare a quell'ora, ma alle 9 va bene. Va bene, da, non c'è problema, alle 9 qualcosa sono da te, da. Vediamo più il nastro io per quello, la forbice, il nastro e il resto, così ti ricordo il lineale, vediamo se esce. Cappas. Ok. Non ci sta problema. Cioè mi vado a mangiare il secondo, cioè il riso e il pollo fatto con le olive, hai capito, Antonio? Io c'ho con la metà pizza la mangiare, mi figura di la mangiare a metà a pranzo, poi mi sono corizzato, mi stavo per la sonnenza, stavo vedendo, ho mangiato troppo, mi sono corizzato fino alle 5 e mezzo, poi mi sono messo a fare qualcosa qui e poi sono entrato a fare qui. Già va bene, già la mangio da buona stavolta. Vabbè, ci sentiamo dopo, dai, Antonio. Ah? Sì, va bene, non c'è problema, sentiamo dopo, dai. Benissimo. Vabbè, ma sotto casa tua siete? Sì, sotto casa mia sono. GP. Sono stato a lungo, agghiacciato anche questo. Cosa cambia? Per molto poi, quando mi mettiamo a 9.35. Ce l'ho regalo quel pacco mia, che tanto io non l'ho pagato dalla farmacia. sono solo loro. La pizza pio le dice non le pago, io lo sai. Se mi sembra una vaci, non so quanto ne ho, ma credo che non mi battino per tutto il mese. Credo che non mi battino, quindi se ho bisogno di vecchio, andrò, intanto sono quelli di sicuramente. Sono quelli di sicuramente. Se non lo so, non faccio niente io, non devo neanche pagare, figurati, prego lo pago io. Non me lo posso dare, figurati, a meno tu li utilizzi. Io mi facevo le lavorine, cioè, mi vai, c'era una cosa piena, un pacco pieno ancora, quindi no, sono tranquillo. Thank you. se soffio, ma appena via il giro, lo due giro, insomma, così, no, per carità. Guarda che direi che si compra il fuso e è falciato lì, si compra le ali, ma sono la maggiore. Io sono un bello amioso, capito? No, guarda, non torno solo a farmi a me, ma appena sono arrivato, mi ha avuto la volta mia sera, Antonio di Monteo, capito? Ho venuto lui, gli altri, no? Non mi fido di niente nessuno perché è pericoloso. Poi dovrò venire una che l'antenna io, Antonio, l'autostrada, capito? Dove c'è la parabola, ha visto lì. Devo terminare sul cominciamo praticamente. No. Thank you. 203 RBR 203 modello, e c'è il tiro da sopra e nero davanti. Non scatta nulla, nulla scatta. Qualche sistema buono sicuramente. Lo 103, non lascio più il RM. Sto cercando con il 203. Non sono detto oggi, quindi sono RM. Esatto, sì, RL. Scritto qua CB, ah ecco, fa file 203 c'è scritto di Morello, il ripetitore lineare certo, vai lì, c'è cosa lì, però allora, quella piccola, ragazzi, ci vedo più, aspetta, c'è Giuseppe che scrive che lei che ci sono 201 qua per sbaglio, quando lo provi io mi dire. Radio telecomunicazioni 100M, vendita assistenza tecnica, pagici, ricetto di CB, HF, VHF, LIA, Buonavento 14, Battipaglia. 40 euro. Cellulare voi, 335-6017-623. Sono le feste di paese. arrivano qua, anche i finocchi selvatici. Ci metto broccia, no? Sono più morti che li vedo frusci, quelli che ti tirano. Qui c'è banana, lampone, capito? Mantieni sto lampone, tiro lampone. Di tutto ce l'ha. Bardone, non vuoi che ci sia un giro di bardone, c'è la ragazza di maschio, mascolo. Che femmina, che femmina. Ma adesso non va, se il buio di salita magari sì. Adesso mi fumo una sigaretta nel buongiorno e mi rilascio 5 minuti, ancora mi fa un po' male la schiena, capito? Io se non sono in forma non mi vale stare in giro. Ma andate voi, già sono qua io, su 14 mi troviamo, hai capito? Dica, ok, andate bene, là. Cambio basso.